il governo già da metà del 2023 aveva presentato in Parlamento, inizialmente al Senato, un disegno di legge di modifica della legge 185 del 90 sull'export di armi. Già come Repace Disarmo avevamo espresso alcune preoccupazioni rispetto all'impostazione nuova che il governo voleva dare alla normativa, alla materia sull'export di armamenti. Queste preoccupazioni le abbiamo espresse in audizione. L'audizione è stata anche positiva perché abbiamo avuto un'interlocuzione con diversi parlamentari, sono stati presentati diversi emendamenti al primo testo del governo, anche dalla relatrice Stefania Craxi, che è la Presidente della Commissione. Quello che abbiamo scoperto nei voti fatti invece l'altro ieri è che tutti gli emendamenti migliorativi che aumentavano la trasparenza, il controllo, i meccanismi legati ad esportarmi e il riferimento alle norme internazionali e criteri internazionali erano stati bocciati, invece erano stati solo approvati degli emendamenti cambiati all'ultimo momento, proposti all'ultimo momento, quindi che non avevamo potuto nemmeno vedere preliminarmente, che non solo appunto non aumentano la trasparenza, ma in realtà riducono o potenzialmente riducono i contenuti della relazione al Parlamento sulla export d'armi e soprattutto cancellano un pezzo importante di tale relazione, quello legato alle cosiddette banche armate, cioè alle banche che prestano i propri conti correnti, i propri buoni uffici, diciamo così, per le transazioni internazionali riguardanti il commercio di armi. Un altro emendamento, come dire, allunga anche i tempi della relazione annuale che deve andare in Parlamento e toglie anche delle informazioni importanti. Sì, purtroppo al di là dello spostamento di un mese, che fondamentalmente è solo un prendere atto del fatto che la relazione al Parlamento negli ultimi anni è stata davvero presentata in grave ritardo, ma soprattutto nella riformulazione che è stata poi accettata e votata, non si vanno a dettagliare, così come invece noi avevamo proposto, tutte le tabelle e le informazioni che ci dovevano contenere nelle tabelle, ma in realtà si determina in maniera solo generica il contenuto della relazione, col rischio che se poi appunto l'unità per l'autorizzazione degli armamenti e gli uffici preposti andranno a presentare una documentazione più povera, meno trasparente e meno precisa di quella che abbiamo avuto fino adesso, noi non potremo più dire nulla. Ecco, quindi è grave che non solo appunto ci sia un cambio nelle modalità previsto, perché la legge non è ancora votata definitivamente, nelle modalità di autorizzazione dell'export di armi, che si sposta moltissimo nell'ambito politico senza avere un contraltare tecnico che possa davvero andare a implementare quelli che sono i criteri voluti dalla legge e dalle normative internazionali, ma in più ci si riduce anche la possibilità di accedere alle informazioni, il che è ovviamente gravissimo. Diciamo che con questo passaggio si toglie la maschera a quelle che sono le intenzioni del governo, che sono intenzioni solo di andare a favorire gli affari armati, diversamente da quello che era stato prospettato nella presentazione del DDL. Voi come reagirete a questi emendamenti che poi immagino debbano passare poi alla Camera? Sì, beh, c'è ancora comunque un passaggio in aula, nel senso che questi emendamenti adesso sono stati mandati alle commissioni affari costituzionali e bilancio per i pareri, diciamo, conseguenti, per capire se hanno impatti da questo punto di vista. Poi ci sarà una votazione in aula al Senato e su quella, a questo punto, avendo, come dire, tolto la maschera, no, sui reali obiettivi, ovviamente chiederemo, non dico una battaglia, ma sicuramente un'attenzione maggiore da parte di tutti i partiti politici, in particolare quelli della minoranza, chiaramente, perché quelli della maggioranza, come si è visto, addirittura li obbligano a ritirare gli emendamenti alla loro stessa relatrice, e poi ovviamente c'è il passaggio alla Camera. Diciamo che in questa fase si apre davvero la necessità di una mobilitazione forte, e poi noi siamo pronti anche a un ulteriore, nel caso, passaggio finale, se il testo di modifica della legge dovesse essere questo, non conterrebbe nessun riferimento al trattato internazionale sul commercio di armi, che secondo noi è gravissimo, non lo conterrebbe perché in realtà quel trattato ha delle criteri più stringenti della legge nazionale, quindi viene visto come fumo negli occhi dall'industria europea della difesa e non solo, quindi anche da quella italiana, e in quel caso noi cercheremo anche di impugnare il testo della legge, perché se è ovvio che l'attuale testo non potesse contenere un riferimento all'ETT, che è stato approvato dopo la legge, quindi nessuno ha la sfera di cristallo per immaginarsi un riferimento a una normativa non ancora presente, nel momento in cui invece oggi si va a toccare quella normativa è evidente che bisogna per forza fare un riferimento a un trattato che ha forza di legge maggiore, perché è una norma internazionale. Ecco, questo è una mancanza che molti emendamenti invece hanno cercato di colmare e che è stata completamente rigettata dal governo, ed è per noi inaccettabile.